Pronto? Buongiorno, siamo della M3, stiamo valutando l'orientamento alle lezioni. Ha 5 minuti per l'intervista? Cosa, scusi? Sarò velocissima, giuro. Veramente io? Dormivo ancora? No, sicuro? Sì. Certo, a quest'ora... Infatti me l'ho rimesso sdraiato solo un attimino. Ma che ore sono, scusi? Un attimo che cerco il cellulare, Sta in fondo alla borsa. Grazie. Ora ci penso io. Il rossetto, l'agendina... E dove l'ho messo? L'ha trovato. Un attimo. Ecco i fazzoletti, le chiavi del motorino, le matite, la crema al gelsomino... Mi sto alzando, guardo sul mio... Ho detto che lo sto cercando io, mi dia un attimo, no? Ok. Ma perché fa così? Mi scusi, è che non mi sento tanto bene. Davvero? Sì. E cosa si sente? Mi sento come se... Non le dico io. Stamattina avevo la febbre, mi sono dovuto alzare per andare al lavoro. Ah, mi dispiace. Lasciamo stare, va? Quando c'è gente che... Vabbè, posso continuare a cercare il cellulare? Prego. Le chiavi di casa, gli assorbenti, ancora l'agenda... Oddio, eccolo! L'ha trovato. Eccolo l'infuso alla mela! Stava qui. Era una settimana che lo cercavo. E meno male, vedi? È meno male. Infuso alla mela, infuso alla camomilla, infuso al rooibos. Senta, io dovrei vestirmi. E io? Praticamente sono uscita in pigiama. Cioè, nessuno qui sa che è un pigiama, ma indosso la stessa maglietta che indosso per dormire. Ma mi scusi, ma chi ha detto che era? Siamo della M3, stiamo votando lentamente la polizia. Iniziamo subito con la prima domanda. Allora. Scusi, non è che potrebbe chiamarmi tra una mezz'oretta? E magari, e come faccio? In che senso? Non trovo il cellulare con l'orologio, come faccio? Una mezz'oretta, boh. Guardi, sta davanti a un PC in questo momento. Certo. Allora ce l'ha sullo schermo, e dove? In basso a destra, ce l'hanno tutti i computer. Vediamo un po', in basso a destra, non c'è. Adesso concentrare sull'intervista, ok? Prima domanda, riguardo gli schieramenti voci attuali, lei... Come non c'è? Non c'è, il mio computer sarà l'unico di roba, ma non c'è. E che ci posso fare? Ho svuotato la borsetta, sono qui ad aspettare che si svegli. Che altro vuole? Sembra di sentire il mio capo, sembra. Ok. Me la invento, allora, sono le 20:40, sono le 18:30. Sì, va bene, ho capito. Sono le 7:30. Davvero sono le 7:30? E sto lavorando, non so se se ne rende conto. Lo so, mi scusi. Mi alzo e guardo io. E non tutti possono rimettersi a letto un attimino. Ma sono le 7:05. Alleluia, adesso è contento che sa allora. Lei mi ha chiamato alle 7:05 per farmi un'intervista telefonica. Guardi, conoscendola meglio non so se l'avrei chiamata, Ma la gente dorme a quest'ora. E io? Io cosa? Non ho diritto a svegliarmi quando voglio. Sì, ma... E quindi che intendi per la gente? Mi scusi, io non sono la gente. Quelli che si svegliano presto chi sono? Animali, oggetti. Ma che c'entra? Lei ha una visione degli altri molto limitata, lo sapeva? Io quelli come lei a volte... Cosa? La gente dorme. E nei turbini? E detto in ospedale? Oggi non opero perché è prestino, dicono. Ma non c'entra nulla, scusi. Lei è un po' coglioncello, me lo faccia dire, ma l'ha intervista lo stesso. Allora, prima domanda, riguardo gli schieramenti politici alle prossime elezioni, si ritiene non soddisfatto, poco soddisfatto, soddisfatto o molto soddisfatto? Sta scherzando. Anch'io la penso così, ma deve limitarsi le opzioni, scusi. Credo sia illegale chiamare la gente a questo, lo sa. Fa il poliziotto? No. E meno male, se facciamo una rapina alle 7. Bene, io mi rimetto a dormire. È come vuole, ha detto lei che era sveglio. Signorina, finora ho cercato di essere gentile, ma... E io, che ho svuotato la borsetta per lei, adesso la devo rimettere a posto. Basta, ok? Stanotte ho dormito 4 ore. E io, lo sai quanto ero dormito? E non mi interessa. E poi la faccia finita di parlare sempre di lei e io. Ha mai pensato di ascoltare anche i problemi degli altri? Ha ragione. Mi dispiace. Come mai non ha dormito? Lo vuole proprio sapere? Certo. Sono distrutto. Mi sono lasciato con la mia ragazza dopo 2 anni. Si è lasciato dopo 2 anni, esatto. E io che mi sono lasciato dopo 4 anni. E che ne so, non mi importa, io sto malissimo. E io sto bene, sto... E magari lei non l'amava, certo che l'amavo. L'amavo con tutta me stessa, lo amo ancora, lo amo. Non posso smettere un attimo di pensarlo. Mi sveglio la mattina e mi giro ancora dalla parte del letto dove stava, credendo di trovarla ancora lì. Anche se lui ormai abita in America, è sposato, ha 2 figli, è un cane pastore tedesco, sì. Cavolo, e come fa a dare ancora un senso alla sua vita? Come fa? Sesso. Cosa, scusi? Sesso, tanto sesso. Ecco come faccio, gli dirò, alla fine, tirando le somme, è anche meglio. Cioè, voglio dire, da una parte stavi con l'uomo che amavi, felice a casa tua, davi un senso alla tua vita, dall'altra scopri veramente tantissimo. Ma dici davvero? E certo, le ripeto, stai sempre a pensare a quell'altro e a quanto sarebbe stato bello. Ma quando poi? Se lavori tutto il giorno e poi la sera torni a casa, esci ogni volta con uno diverso, ci vai a letto, fai le porcate, non ne hai il tempo materiale molto spesso. Ma con chi fa sesso? E con chi capita, veramente con chi capita, anche con lei, chi lo sa? Magari dopo l'intervista ceniamo insieme e da cosa nasce cosa. Se lei ama un altro. Ah, se ama un altro non posso. Vabbè, si rimette a letto un attimino, ok? Aspetti. Buonanotte, spenga bene la luce, mi raccomando. Mi scusi se l'ho svegliata. La prego, non attacchi. Si ama un altro, si ama. Tu. Pronto? Pronto, ciao, sono io. Io chi, scusi? È quello che ha chiamato questa mattina per l'intervista e non mi ha riconosciuto. Hai idea del numero di persone che intervisto ogni mattina? Certo, mi immagino, ma sono quello che si era rimesso a letto un attimino, ricorda? Erano le 7.05. Ha presente quante persone si sono rimesse a letto un attimino stamattina alle 7.05? In effetti, scusi tantissimo, sono quello che si era lasciato. Ah, credo vagamente di ricordare. Il lituano, Vassili. Vassili? No, veramente... Ho capito, dica. E niente, avrei cambiato idea. Ho riflettuto molto bene su quello che mi ha detto e mi andrebbe di fare l'intervista. È sicuro? Sì. E come ha fatto a telefonarmi? Ho cercato su internet la M3, ho telefonato, ho detto che una ragazza tanto brava stava facendo l'intervista. E le hanno passato subito me? No, mi hanno passato altre 5 prima di lei. E fanno mobbing, lo so, fanno mobbing. Comunque, è impossibile non riconoscere la sua voce. Sono molto contento, lo sa? Ho riflettuto molto su quello che mi ha detto e... Va bene, ma sbrighiamoci, ok? Certo. Professionali stavolta? Va bene. Dunque, eravamo bloccati sulla prima domanda. Pensando agli attuali schieramenti politici, si ritiene non soddisfatto, poco soddisfatto, soddisfatto e molto soddisfatto? Soddisfatto. Federica, non ho beccato un altro, non ho beccato... Cosa, scusi? Niente, parlavo con la collega. Professionali, eh? Allora, seconda domanda. Ritiene che il suo voto possa orientarsi a sinistra, centro, destra o nessuno di questi schieramenti? Centro. Coglione. Cosa, scusi? No, niente. Va bene così. Forse è meglio che mi dà il suo cellulare e magari la richiamo quando torno a casa per finire l'intervista. Cioè, io dovrei portarmi il lavoro a casa. In un certo senso, magari le è più comodo e poi una volta finito potremmo... Va bene, ma solo perché mi metto tanta passione nel mio lavoro. Certo, la chiamo stasera. Pensi che mi ha anche un contratto a tempo indeterminato? Ma dai, incredibile. E il mio capo, sì, per sentire le telefonate degli altri ce l'ha. Quanto guadagni, capo? Quanto guadagni per sentire questa? Il suo numero, scusi? Il mio numero è 345. Cosa, scusa? 34588. Non capisco come parla. Ho paura che senta il mio capo, capirai? Gli do pure il cellulare. Giusto, 34588. Scusa. E come facciamo, però? Al numero che ho detto aggiungici 30-27. Ok. Lui è stupido, non le sa le sottrazioni. Ottimo. Poi pensa al film, la carica dei. Ho capito. Bene, lui non ci arriverà mai. E l'ultimo numero? È simile a Can 8, capito? Benissimo. Can 8. Bene, ho capito. 8. Ho capito. Allora, presto. Arrivederla. La M3 la ringrazia infinitamente per la sua collaborazione. Pronto? Ciao, sono io. Ciao, e come stai? Tutto bene, stasera è il grande giorno. Aspetta che sto facendo un'intervista. Mi scusi, può rimanere in linea una trentina di minuti? Cosa? Ma che vuoi da me? Mi sta chiamando un amico, mi sta chiamando. Sì, 30-35 minuti. E io che sono qui da un'ora. E che ne so, si legge una rivista, ok? E io che non leggo dalle medie, neanche leggevo tantissimo. Dai, le metto una canzoncina di musica classica, eh? Dai, dai. Vaffanculo, va. Eccoci a noi, e dimmi tutto. E niente, appunto, eravamo rimasti che appena finita l'intervista venivi a casa mia e abbiamo finito ieri, quindi stasera... Certo, certo, però esco tardi, eh? Va bene, quando finisci? Alle 9:30, magari vengo direttamente da te. Con questo turno di pomeriggio mi stanno facendo diventare matta, ma scusami, basta parlare sempre di lavoro. No, no, no, poi mi racconti bene. Sei contenta, però? Stasera è la prima volta che ci vediamo e avevi detto da cosa nasce cosa. E certo, certo, finalmente, no? Direi, 5 telefonate per un'intervista. Ma come, pensi che è troppo? No, no, no, no. A che ora arrivi, quindi? E metti alle 9:50, va bene? Perfetto, dai, non vedo l'ora. Bene, bene. Non sai quanto ho aspettato questo momento? Mi fa un sacco piacere anche a me. Ottimo, ottimo. Allora dai, ci vediamo verso le 10 da me. Facciamo già scopati? Ok. Dai, già scopati. Alla grandissima. Allora dopo, A dopo, dopo, dopo. Aspetta un attimo, fammi pensare bene. Le 10 hai detto? E se alle 9:30 sono libera, arrivo sicuro entro le 10. E beh, allora puoi scopare da me. Sì. E se vuoi, magari ti fa più comodo. Sicuro? Per me è lo stesso, certo. Una cosa tranquilla, non ti aspettare chissà che. E ci mancherebbe, non è questo. È che non so se ce la faccio fino alle 10. Di solito mi faccio fare qualcosa al volo in ufficio. E come vuoi, come vuoi. Io comunque scopo sempre tardi. E davvero? A che ora? Alle 10. Ma dai, così tardi? Eh sì, sì, a casa mia scopavamo sempre tardi. Ma pensa tu, e se poi devi uscire? Scopo fuori. Se devi uscire, scopo fuori. E certo, certo. Allora guarda, lo sai che facciamo? Dimmi. Vengo alle 10 e scopiamo insieme. Perfetto, dai. E cerco di resistere. Ottimo. Ma sei sicuro? Non è che disturbo? Ma no, no, ci mancherebbe. A dopo allora, eh. Ok, ciao. Ciao. Pronto? Ciao, sono io. Oh, ti stavo per chiamare, davvero? Eh sì, sì, sono sballatissima, guarda, non riesco a concludere niente. È tutto il pomeriggio che voglio sentirti. Anch'io, lo sai. Devo dirti una cosa importante, ormai siamo insieme da mesi e... Aspetta che mi allontano che sentono. Ok, fai pure. Volevo dirtelo già ieri, ma proprio non provavo il coraggio. Aspetta che i miei colleghi tutto il giorno che mi prendono in giro. Tranquilla, tranquilla. Sì, sì, è lui. Shh, shh, dai, Federica, smettilo, ok? Dai. Eccoci soli. Oddio mio, ora sono imbarazzatissima. Ma perché? Ho problemi a descrivere quello che sento dentro, è presente? Lo so, anch'io sono negato. Ci provo, dai. Prendo un bel respiro. Allora, volevo dirti che non ti amo. Forse è un po' presto per parlare di certe cose. No, no, se lo senti davvero. Guarda, io me lo ripeto sempre, le cose bisogna viversele basta senza metterci su tante etichette. Ma stavolta volevo proprio dirtelo, non ti amo per niente. Davvero? Eh sì. Neanche io ti amo. Neanche tu. Non ti amo dalla prima volta che ti ho visto, mi stai anche un po' sul cazzo. Ma è bellissimo quello che stai dicendo, davvero. Ma davvero non mi ammetti sto sul cazzo? Non ti penso mai, sai che vuol dire mai, mai. Oddio mio, ma proprio come me, era questo che volevo dirti tutto il giorno. Ti giuro, a volte mi scordo proprio come ti chiami. Io devo scrivermelo su un foglietto, devo scriverlo. Ma quanto siamo fortunati? Molto, molto. Da quanto siamo insieme? 3 mesi, 2 giorni e 11 ore esatte. 3 mesi, 2 giorni e tutto senza amarci neanche un po'. Sei felice? È uno dei periodi più belli della mia vita, guarda. Era da anni che amavo sempre qualcuno. Davvero? E giuro, giuro. Eppure mi dà un sacco da fare, uscivo tutte le sere, scopavo a destra e a sinistra, ma alla fine non succedeva mai niente. C'era sempre qualcuno che mi piaceva tantissimo, capito? Ma poi in effetti quando ho smesso di cercare... Eccolo lì che trovi uno che non te ne frega un cazzo. Infatti, infatti. Io comunque credo sia la prima volta che non amo una persona. E la ragazza con cui sei stato insieme 2 anni? Capirai, l'amavo tantissimo. È la prima volta, te l'ho detto. Ma sei sicuro? Lo sai che è una cosa forte quella che stai dicendo? Lo so, ma questo è quello che sento. Certo, non posso prometterti niente. Lo so, magari adesso sto così e poi tra un mese ti amo. Lo so, non possiamo prevedere. Ma quello che è importante, credo, è che non ci amiamo adesso, no? Sei fantastico, lo sai. Detto da te mi crea un'enorme indifferenza. Ora però devo tornare a lavorare, mi chiamano. Ci vediamo dopo. Certo. Dormi da me. Va bene. A dopino allora. A dopino. Attacca prima tu, dai, prima tu. No, prima tu, dai. Non ti amo. Non ti amo di più io. Ciao. Ciao. Io lavoro, non penso a te. Torno a casa e non penso a te. Le telefono e proprio non penso a te. Come stai? Non penso a te. Dove andiamo? Non penso a te. Le sorrido e proprio non penso a te. Non so con chi adesso sei, non so che cosa fai, ma spero proprio che non mi stai pensando. È troppo grande la città per due che come noi sperano di non beccarsi mai. Pronto? Ciao, sono io. Ciao, tesorino. Te lo dico subito, guarda, perché non voglio girarci tanto intorno. Cosa? Ho un ritardo. Chi? Io, ho un ritardo. Mi sembra proprio di no, mi sembra. Sì, ce l'ho. Ma no, dai, dai. Lo saprò io, no? Ti dico che ho un ritardo, Guarda, avevi detto che chiamavi alle 11, sono le 11 e un quarto. Un quarto d'ora non è ritardo. Forse non hai capito. Ho capito. Guarda che intendo. Ho capito. Quindi, a posto così per te? Ma certo, tranquilla. Non pensi che col tuo atteggiamento stai sfuggendo la realtà? Io? Sì. Così però mi offendi, scusa. Senti, già lo faccio io di sfuggire la realtà, se ti ci metti anche tu. Va bene, vado. Allora hai un ritardo. Così va meglio. Cosa pensi di fare ora? Non so, pensavo di sgridarti, la solita ritardataria, va bene così. E io che stavo in piedi ad aspettarti, più drammatico lo vuoi, più drammatico. Pensavo fossi scappata in Alabama per sempre. O la polemichetta, ti piace la polemichetta? La prossima volta a Natale fatti regalare un orologio, va bene così, dimmi tu, dai. Hai finito? Sì. Sei sicuro che stai parlando dello stesso ritardo? Ho capito. Allora guarda, ti saluterei, magari ne parliamo un'altra volta. Non mi sembra la stai prendendo benissimo. Ciao, tu. Aspetta, tu. Aspetta, pronto? Ha attaccato, cavolo. E ora? Con chi parlo io? Però è bello parlare da soli al telefono, senza battibecchi. Ah, da soli al telefono, finalmente. È bellissimo sentire la propria voce. Di quante cose posso parlare con me stesso al telefono ora. Quante cose posso dirmi? Vabbè. Ciao, magari ci sentiamo un'altra volta, Ciao. Tu. No, grazie, non mi va, grazie comunque. Ciao, giochiamo? No, guarda, sarebbe stato bello, però stavo un attimo al telefono da solo e anche questo è molto bello, ti ringrazio molto. Ciao, sono il leoncino. Lo so. Gioca con me. No. Pronto? Allora? L'ho fatto. Già l'hai fatto, davvero? Sì. Io avrei voluto parlarti prima. Forse dovevamo decidere insieme. Come ti senti ora? Benissimo, guarda, mai sentita meglio, ti giuro, mai sentita meglio. Sei sincera? E come ho fatto ad aspettare finora, non lo so, guarda. Se ci penso, gli ho regalato una parte importante della mia vita. A chi? A quelli del lavoro. Quelli del lavoro? E certo, ma che stai pensando? Ancora quella storia del ritardo? No. Poi mi sono venuto subito dopo la telefonata, era evidente. Certo, lo so, era evidente. Intendevo che mi sono licenziata. E vorrei vedere, scherziamo. Da quanto lavoravi lì? Solo 9 mesi, ma ovviamente non contano tanti mesi. È una questione psicologica. 9 mesi che valgono come 10 anni, ti giuro. Mi immagino. Lascia stare, va. Turni da 4 ore di lavoro. 4 ore? A volte andavo in ufficio con la febbre a 36. Una tortura, ovviamente non una tortura vera e propria con botte e tutto. In senso psicologico, intendi? Bravo, bravo, bravo. Ogni giorno dovevo alzarmi, vestirmi, prendere l'autobus e arrivare lì. E quando arrivavo neanche mi dicevano grazie. Questa è maleducazione, però. Una volta glielo stavo quasi per dire: e perché non venite voi? Perché per una volta non venite tutti a casa mia? Sempre io che devo andare in ufficio, sempre io. L'irrazionalità, vedi? No, no, guarda, non è possibile. Poi lo chiamano open space, una prigione, una prigione. Eh sì, in senso psicologico. No, no, una prigione davvero. Sta accanto a Re Bibbia, il call center dove lavoravo. Ah. Il palazzo proprio accanto, praticamente lo stesso edificio. Ma meno male che ho detto basta. Puoi dirlo forte, puoi dirlo. E come ha reagito il tuo capo quando ci hai parlato? Se l'aspettava? E certo che no, capirai. Lui pensava che mi aveva in pugno, pensava. E perché? È perché era innamorata di lui. È vero? In che senso, scusa? Lo amavi? Eh sì, tantissimo. Lo amo anche adesso, lo amo. Dici sul serio? Altrimenti non te lo direi, no. Comunque, basta con questa gente. Sto per iniziare una nuova vita e sono contentissimo. E tutto questo grazie a te. Se non ti avessi conosciuto, non avrei mai trovato la forza di dire basta, capito? Ti ricordi quando mi hai chiesto come facessi a dare un senso alla mia vita? Ecco, ora io non lo so come facevo, ma solo adesso mi sembra che la mia vita ne abbia davvero uno. Perché non dici niente? C'è qualcosa che non va? No, no, no. Dai, che c'è? Niente, niente. Non sei contento? Non sono mai stato così contento in vita mia. Stai pensando ancora alla storia del ritardo? Ma no, no, era evidente. E allora? Sei sicura che lo ami il tuo capo? E te l'ho detto, no? Ok, ok. Non mi credi? Sì, ti credo, è che mi sento un po' insicuro. Oh, guarda che per lui ho pianto ore e ore e ore, eh. Lo amo tantissimo a lui. Smettila di pensare cavolate, ok? Tu sei diverso, io quando penso a te davvero non sento né caldo né freddo. Di te davvero non me ne frega proprio un cazzo, capito? Ok, scusami, scusami. Mi fa una tenerezza quando fa così. Lo so, sono uno stupido, lo so. Lo sai che ieri notte ho visto un documentario storico dove c'era uno che ti assomigliava tantissimo? Dai, chi? Adolf Hitler. Oh. Ovviamente non per la guerra e tutte quelle cose brutte. Proprio fisicamente, brutto, basso, coi baffetti, sempre incazzato. Grazie, grazie. Lo sai che pensavo quando sono tornata a casa subito dopo che mi sono licenziata? A che pensavi? Al mio capo, ovviamente. Certo, certo. Ma dentro di me sapevo che prima o poi avrebbe smesso di mancarmi. Quello che provo per te invece è per sempre, ci sei? Non ti amerò mai e poi mai per tutto il resto della mia vita. Neanche io. E io di meno? No, di meno io. Io quello che non mi ami tu meno il doppio. E io meno il doppio meno 10. E io meno 59,4. E io meno 59,4 la seconda. Attacco veloce così non mi puoi dire niente. Tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu. Sono incinta di un bambino. Cosa? Hai sentito bene, sono incinta di un bambino. E me lo dici così, me lo dici? E come te lo devo dire, scusa? Si dice, sono rimasta incinta, oppure aspetto un bambino. Sono incinta di un bambino è grammaticalmente scorretto, scusa. Vabbè, allora, sono rimasta incinta, va bene? Perfetto. Dai, lo sai che non sono un precisino, ma certe volte... Cioè, se dici, sono incinta di un bambino, sembra che il bambino è il padre di tuo figlio. Ma hai capito che intendo? Certo, certo. Scusa, che sei incinta, intendi? Ecco, si può dire anche così. Sono incinta, semplice, semplice. No, sono incinta di un bambino. Sono contenta che hai capito, perché avevo paura che avessi un'altra fuga dalla realtà, come quella volta di ritardo, ricordi? Certo, certo, certo. Invece l'hai presa bene. Benissimo, benissimo. Niente fuga dalla realtà, ma no, no, no, no. Sono proprio contenta, guarda, sono veramente contentissima. Certo, certo. Gianco, tu rispondi. Cosa dici, scusa? No, niente, dai, sono veramente molto contento. Poi ci organizziamo bene, ok? Gianco, tu, dove siete con gli elicotteri? Dove siete con gli elicotteri? Ma con chi parli? Ho detto niente, tesoro, dai. Poi ti dico, bene, scusami un attimo, tesoro. Allora, tu col disco volante puoi metterti a destra? Tutti quelli con le antenne gialle invece a sinistra, ecco così, bravi, bravi. Ma con chi stai parlando? 5 minuti, tesoro, 5 minuti, dai. Scusami, Michael, quando lo facciamo allora questo disco? Però io non ballo, niente cose tipo Billie Jean, Thriller, ok? Pronto! Tesorino, 5 minuti, dai, 5 minuti. Ti prometto che tornerò. Ora i bastioni di Omega mi richiamano con il loro canto. Difenderò la mia stirpe Alfa Gamma, funziona anche l'ultimo grido che esce da questa corazza elettronica ormai stanca. Ma ti prometto che tornerò, mi credi? Ma vaffanculo, va, tu. Rispondere al cellulare, ma potete lasciare un messaggio dopo il beep. Prima però volevo parlare un po' da solo al telefono, che è una cosa che mi diverte. Ah, senza battibecchi, da solo al telefono. Per l'occasione vorrei parlarmi del senso della vita, sì. E il senso della vita è quando si... Tesorino, ma non ti trovo mai? Va bene, ti lascio tutto in segreteria. E niente, volevo chiederti di comprarmi un paio di cosette, che non posso muovermi con questo pancione. Allora, niente, i fazzolettini, 2 bottiglie d'acqua alete e un po' di pane, ecco, che mi è finito. Ah, poi del tè verde, è un po' di infuse, tanto li trovi tutti nella stessa erboristeria. Infuso al gelsomino, infuso alla camomilla, infuso al garofano, infuso al ginkgo biloba, infuso allo zenzero... 18 pacchi di pasta, se puoi, così sto a posto per un po'. 2 scatolette di sugo al tamarindo. Non so se li trovi, cercalo un po' in giro per Roma, ok? Me lo prometti? Sugo al tamarindo. Ah, cavolo, mi stavo dimenticando, scusami. Il portatile, sì, si è rotto oggi pomeriggio. Guarda, se mi fai questo favore di comprarlo tu, che io non ci capisco niente, compralo potente, ok? Della Apple mi hanno detto che è buona, sì. Poi una collanina che mi si è rotta, quella d'oro. Okay, mi sembra basta. Sì. Ah no, il caffè. È finito il caffè, scusami, che scema. Prendi pure un bello stereo, che la musica fa bene al Fedo e pure a me. E dai, dato che ci stai, nello stesso negozio dovresti trovare anche una di quelle macchinette fotografiche digitali che puoi usare anche al mare, sott'acqua. Lo so che siamo in inverno, ma sono incinta e ho voglia di macchinetta fotografica digitale subacquea, tesorino. Prendi la professionale, sì, che dura anni. Oh, e ti ringrazio tantissimo, Mi metto a letto che sono un po' stanchina. Fai presto, Ciao. Ale, no, era, gine, ari, vissà, renti di insostituto, l'odio, une, scolazione. Sal, rin, in alimento, avad, sa, sal, su. And come and e ci e sei and as gli occhi vorrei e pipi pipi e pipi pipi e pipi pipi e pipi pipi pipi pipi pipi pipi. Che fa? E ride quando gli faccio pipi pipi pipi pipi. Dai, davvero, passamela, mettile il cellulare vicino. Eccola. Ci provo. No, delicato, più pi, così devi fare, ok? Ho capito, dai. Ce la faccio. Pi. Che fa? Ha rigurgitato. Come gli hai parlato, ha rigurgitato, ma sarà un caso, ti pare? Certo. Quando hanno detto che potete uscire? È domani mattina puoi tornare a prenderci in ospedale. Sei contento? Sono contentissimo. Ce la faremo. È certo che ce la faremo. Bene. Ho già comprato il girello per domani, così si sgranchisce. Il girello a 2 giorni, è troppo piccolo. Ah, certo. Scusami, non sono pratico. Non ti preoccupare, dai, con il tempo imparerai. Comunque, ho preso anche una sorpresina. È davvero? E che cos'è? E non te lo posso dire, dai. È una piccola sorpresina. Eccola. Ma che cos'è questo rumore? Niente, poi lo vedrai. Lo vedrai. Senti, non è che potresti dargliela in un'altra occasione? Ok, va bene, hai ragione. Allora preparo solo il pranzo. Che mangia la piccola? Facciamo un po' di pasta in bianco? Ma stai scherzando? Come vuole lei, basta che non fai complimenti, eh. È mia figlia, non devi fare complimenti. Va bene, poi ti spiego bene alcune cose. E l'importante è che sei felice. Io sono felicissimo, sono... Finalmente sento che la mia vita ha quasi un senso. Crescerà bene senza il nostro amore, vero? Quasi, appunto, quasi un senso. Comunque sì, è una bambina fortunata. È perché ha qualcuno che non la ama. Beh, che c'è da guardare? Che succede? Scusami, c'è un'altra mamma che guarda nel letto accanto. Una che ha fatto il cesario. Una che ho detto che non va, scusi tanto. Ha fatto il cesario a Rosica? Sai che se parla troppo si riapre tutto? Sì. Scusami, ora finalmente sta zitta. Dicevi? Pensa che mia madre mi ha sempre amato. Davvero? Sì, mi sono sentito sempre amato da mia madre. È brutto, vero? E mi dispiace tanto, tesorino. Comunque adesso è importante non ripetere gli stessi errori dei nostri genitori, no? Infatti. Anche se poi è difficile, stai lì tutta la vita a pensare che sei diverso e poi all'improvviso, zac... ti ritrovi che sei come loro. Esatto. Ma, che ne so, io credo che se ci impegniamo, se ci lavoriamo sodo... Speriamo. Io ce la metterò tutta. Passamela un attimo. Ma sei sicuro? Sì. Devi fare pipi, così alto. Posso provare a modo mio? Certo, devi trovare il tuo modo più spontaneo. Bravo. Mettigli il cellulare vicino all'orecchio. Sento che posso farcela. Ok, eccola. Ciao, io, papà. Adesso tu ascoltare. Aspetta. Che succede? E niente, sta vomitando proprio tutto. Eccola lì. Ma sta morendo. Ma che? Comunque, meglio che non te la passo più, ok? Va bene. Hai visto che bella? È bellissima. Assomiglia tutto a te, assomiglia. A me? Ma stai scherzando, scusa. Magari assomiglierà a te. Ma neanche per sogno, è identica a te, eh. Ma fammi grattare, va. È la tua copia esatta, cavolo. Ma ce l'ho qui davanti, guarda, il naso è tuo, sì, al buio è tuo. Vabbè. Comunque è ancora piccola. Sì. Dicono che cambiano. L'importante è che crescendo non assomiglia a noi. E speriamo. Anche se poi è difficile. E infatti... Stai lì tutta la vita a pensare che sei diverso e poi all'improvviso, zac! Sei come i tuoi genitori. Ci vediamo domani, allora. Ok, mettiti una maschera. A dormire di là? No, guarda, l'ho mandata a studiare a Londra, l'ho mandata. Tanto la sentiamo se si sveglia, abbiamo il walkie-talkie. Abbiamo un problema noi due. Quale? Quando parliamo sembra sempre che siamo al telefono. Davvero? Sì, come adesso. Mi sento come se mi parlassi al telefono anche se siamo qui, uno di fronte all'altro, perché? Non so, una tua deformazione professionale. Non credo, no. Chi hai in mente? Magari si è creata una certa distanza tra di noi, che ne dici? Una certa distanza? Ma stai scherzando? No. Dove sei stato oggi? Al lavoro, dove vuoi che sono stato? E mi hai pensato? No. Sicuro? Proprio mai? Eh sì, per niente. Neanche 5 secondi? Come fai a dire una cosa del genere? Sono sincero. E stamattina, mai pensato stamattina? No. Sicuro? Ho detto che non t'ho pensato, cavolo, non t'ho pensato. Eccola che la svegli, eccola. Ok, ci penso io, dai. Pi, che c'è? Dimmi tutto. E non lo so quanto costa il metro quadro a papà, dai, non lo so. Conviene comprare, dici? Ma papà non li ha tutti quei soldi. Perché non li ha? E cambiare lavoro, dai, è mica è facile. Non lo so al metro quadro quanto costa. Dai, dormi, ok? Dai, dormi. Oddio, a volte mi chiedo a che età dovremmo cominciare a parlarle della crisi economica. E non usare tua figlia per cambiare discorso. Abbiamo un problema qui. E oggi pomeriggio, a che hai pensato oggi pomeriggio? Oggi pomeriggio? Sì. Alla politica. Ma se non te ne è mai fregato niente? Appunto, ho bisogno di pensarci di più. E poi che hai pensato? E poi non me lo ricordo, cavolo. A che ho pensato? Boh, e mica mi posso ricordare tutto. A volte magari non ho pensato a niente. Sarà. Che intendi? Non hai trovato neanche uno spazietto di tempo per pensare a me? Eh no, ho detto che non mi far alzare la voce che la sveglio di nuovo. Non ti ho pensato e non ti ho pensato. E allora come mai tutti quei messaggi? Che dici? Dico, se non mi hai mai pensato, come mai mi hai mandato tutti quei messaggetti sul cellulare? Boh, mi annoiavo. 10 messaggetti in un giorno, Senti, ma chi credi di prendere in giro? Se mi hai mandato 10 messaggetti significa che mi hai pensato almeno 10 volte, è matematica, no? E tu, allora perché mi hai risposto? È per educazione, che c'entra? Il regalo che mi hai fatto ieri, l'anello? Mia sorella ne aveva uno in più. Senti, parliamoci chiaro, tu mi pensi... No. Sì, mi pensi e mi pensi anche tanto. Ti assicuro che non è vero. E allora ad Amsterdam? Ad Amsterdam cosa? Hanno scopato tutti i tuoi amici, 4 amici che vanno in vacanza, scopano tutti tranne te. Perché? Perché? Si vede che non piaceva a nessuna. Sono andati a prostitute, sono andati. Avevo finito i soldi. Tu mi pensi, ecco la verità. Eccola che l'hai svegliata. Stavolta sei stata tu, Sei stata tu stavolta, ci parlo io. Dimmi, tesoro. No, non stavamo litigando. Se invece di litigare lavoriamo di più. E che c'entra, scusa? No, ormai le case costano tanto anche a Berlino, sì. Non lo so il metro quadro, non lo so. Dai. Sì, adesso costano più o meno come... Dormi, va bene? Se dormi papà ti compra un box. A 18 anni ti compra il box. Ok, buonanotte. Promesso, sì, ok. Te lo scrivo in un'email sulla firma elettronica. Ok, buonanotte. Tu mi ami, e questo è il vero problema. Altro che tu mi ami. Io? Ma stai scherzando? E magari. Ma se ogni volta che facciamo l'amore devo pensare no a un'altra ma a altre due. Se mi vergogno quando mi chiedono chi sei rispondo mia zia con la figlia. Non è abbastanza, non è? Ma come? Se tu non mi amassi veramente... E cosa dovrei fare? Se non ti amassi cosa dovrei fare? E che so, mi sbatteresti il telefono in faccia? Porca miseria, non siamo al telefono, lo vedi che sei tu? Tu. Che stai facendo? Tu, con la bocca sto facendo, tu. Lo vedi che se vuoi si può fare, lo vedi che sei tu? Tu. Oh. Tu. Non fai la scema, dai. Tu. Ma sei impazzita, la fai finita? Tu. Ne hai per molto? Tu. Vabbè, io vado a farmi un giro. Tu. Senti, abbiamo una figlia, forse con il tempo cambia anche il modo di non amarsi. Tu. Sto andando. Tu. Poi ci parli tu con questa, ti chiede il 7:40 questa. Tu. Vabbè, ciao, ciao. Ciao. No, dai, sto un attimo da solo al telefono. No. No, dai. Dai, basta, dai, ciao. Non mi va, sto da solo al telefono, dai. Ah, finalmente da solo al telefono. No, neanche un po'. No. Tu. tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu. Sei sicura? Eh sì. Ma ci hai pensato bene? Eh certo, è proprio questo parte del problema. Ma non è possibile, dopo 6 anni così belli. E purtroppo non possiamo farci niente. Ma non ha senso. E la vita non ha senso, lo dici sempre anche tu. È vero, non ha senso, ma almeno avevo voi. Quando l'hai capito? È da qualche mese, credo. Non è vero, la verità è che tu mi hai sempre amato. E non dire cavolate, tu mi amavi dalla prima volta. Ma stai scherzando, se mi facevi cagare, mi facevi. E purtroppo le cose cambiano. All'improvviso ho cominciato ad amarti. Che ti posso dire? Ma così, all'improvviso? È più o meno. È colpa mia? No, dai. Ho sbagliato qualcosa. Assolutamente, dai. Forse con la nascita di nostra figlia. Ma no, neanche credo sia tua. Ah, ok. Allora forse avrei dovuto fare di più. Togliti dalla testa queste cavolate, ok? Tu hai fatto di tutto per non farti amare. Ti ricordi quella volta che mi hai appiccicato la gomma da masticare sui pantaloni perché eri certo che non me ne accorgessi e non volevi sporcare per terra? Sì, certo. Bei tempi. E quando hai scritto il mio numero nel bagno di quel baretto? Avevo scritto che facevi i pompini a 2, sì. Esatto. E quando ti sei baciato con mia sorella alla festa dei miei, non è colpa tua se ti amo, te lo giuro, anzi, dammi retta. Forse ad Amsterdam. Lascia stare, dai. Sì, avrei dovuto andare a Mignotte. Ma no, non c'entra niente. Allora ami qualcun altro, Ma no, ti giuro, tu hai smesso di amare qualcuno e per questo ami me. Ma gli altri non c'entrano niente, non fai il ragazzino, dai. E allora? Non lo so. Ho cominciato ad averti sempre in testa, o mi stavi davanti con la bambina, o ti avevo sempre in testa. Mi impegnavo tanto a non pensarti che alla fine pensavo sempre a te, ecco. Stavo lì a dirmi quanto non ti amavo, quanto era bello che non ti amavo, che non ci amavamo tutti e tre. E che cogliona. E vedi, tu ancora non mi ami. Vorrei vedere se una cogliona sei. E che ti devo dire, io amandoti penso che hai sempre ragione, allora sì, sono una cogliona, capisci che casino? Non sai che darei per non amarti neanche io? Ma bei tempi non possono tornare, bisogna andare avanti. No, ti prego, sì che possono tornare. Non è possibile, lo sai. Ma se sei sempre stata tu che ti lamentavi che ti amavo, che ti telefonavo troppo. Lo so. Hai rotto le scatole anche per quell'anello che ho trovato per terra in camera di mia sorella adolescente. Lo so, proiettavo il mio amore su di te e che avresti quindi dovuto provare amore per me. Cosa, scusa? Se vedevo che tu non mi amavi, riuscivo a non vedere che invece io amavo perché l'amore che tu era fuori di me, ma in realtà non era lo stesso e non me ne rendevo conto come ora non mi rendo conto di tantissime altre cose, capito? E se fossi io a proiettare l'amore su di te, se in realtà ti amassi ma non me ne accorgo perché tu mi dici che mi ami, allora io ti do tutta te stessa evitando forse a di fare conti con me stesso? Beh, forse. Ma hai capito che intendo? No, te la do buona sulla fiducia, ti amo. Certo. Non credo che abbia mai amato nessuno come te. Basta, mi fai troppo male. Ma è la verità, che devo fare? Un minimo di tatto, cavolo, sai che non ti amo. Ok, scusa. Come stai? Insomma, mi hai preso molto alla sprovvista. E lo so. E sembrava tutto perfetto. E infatti, ma anch'io sto male, non ti credere, sa? Come ti senti? E come mi sento? Mi sento come il personaggio di un reading letto e scritto da uno scrittore di livello medio con 4 libri pubblicati che non hanno venduto una ceppa, uno di quegli scrittori che si mette a fare le cose in pubblico perché non ha mai tempo e né voglia di isolarsi e pensa che basta scrivere di se stesso al contrario e della gente che gli sta sul cazzo per fare arte, ecco, così mi sento. E ora? E che vogliamo fare? Non lo so, tu vuoi rovinare tutto. Ma lo capisci che non è colpa mia? No, è colpa mia che non me ne frega un cazzo, è colpa mia. Io se ti amo non posso più stare insieme a te, scusami. E io allora non voglio più vederti. Ma perché? E perché no? Ma come se non te ne frega niente, non te dovrebbe fregare neanche di vedermi. Appunto. Sei confuso. È meglio che non ci vediamo per un po', amore mio. Mi fai schifo, mi fai. Lo so, e per questo te ne sarò sempre grata. E non ti vengo a cercare proprio per non vederti o parlare, perché non ho bisogno della tua presenza per capire meglio la mia assenza. Questo sentimento elitario nasce da meccaniche terra-terra, Un rapimento grottesco e materiale mi allontana da te. Dovrei cambiare il soggetto dei miei desideri, accontentarmi di piccole foglie quotidiane, fare come un'ermafrodita che si basta a sé. Pronto? Ciao. Mi hai riconosciuto? Certo. Sono un po' imbarazzata. Come stai? Bene, che vuoi? E niente, sono anni che non ci sentiamo. Oggi stavo vedendo delle vecchie foto sul computer, le stavo facendo vedere a nostra figlia. In realtà, allora sei spuntato tu. Lei mi ha chiesto chi eri e le sai che le ho risposto? Cosa? Boh. Boh, le ha risposto. Sì, ma sincera, non t'avevo proprio riconosciuto. E lei quando ha capito chi eri, lo sai che ha detto? No, che ha detto? Ammazza che cesso, mamma. Papà era proprio un cesso, era, ha detto. Ah. Allora, ho capito per la prima volta così chiaramente, ho capito che dopo tutto quello che era successo, cioè il tempo passato insieme, quello che avevo provato per te, sei stato molto importante, lo sai? Sì. Ho capito solo adesso che... Che hai capito? Cosa hai capito? Ho capito adesso che non me ne frega veramente un cazzo di te. Ah. È stata solo una sbandata la via, che non può cambiare quello che non c'è stato per te, capito? Davvero, l'ho capito e ora mi andrebbe di chiedere al mondo, non me ne frega un cazzo di te, non me ne frega un cazzo di te. E quindi? Senti, io lo so che è passato tanto tempo, quanto sarà passato? 13 anni, 3 mesi e 14 giorni esatti. Ecco, 13 anni, 3 mesi, come dice, lo so che è tanto tempo, ma credo che non sia troppo tardi per ricominciare. È troppo importante quello che non c'è stato tra di noi. Ti chiedo scusa, non avevo capito. Siamo ancora in tempo, dai, siamo ancora in tempo. Dove abiti? Che fai domani sera? Nostra figlia dorme da alcune amiche e io non so proprio che fare. Mi hanno dato tutti buca. Pensavo che poteva essere l'occasione perfetta per vederti invece di stare a casa ad ammazzarmi in televisione. Che dici? Hai pensato a questo? Eh sì. Cioè... Non ci vediamo da 13 anni, tu hai pensato di dirmi questo senza neanche chiedermi come sto, che faccio, 13 anni, presente? Non mi hai mai chiamato in 13 anni, io potevo essere anche morto, lo sai? Se hai risposto al telefono significa che non sei morto, scusa. Ma vaffanculo, va! Vedi che non sei cambiato neanche tu? Sì che sono cambiato, sono stato male, sono stato 13 anni a pensarti. Che? Ma se non te ne fregava un cazzo? È vero, ma dopo che te ne sei andata così all'improvviso hai cominciato a mancarmi. Oddio mio, non lo sapevo. Non facevo altro che ricordare i momenti in cui stavamo insieme, eravamo felici. Ho capito che è stato il periodo più bello della mia vita e che non avrei mai amato una persona come avevo amato te, senza saperlo. Oddio mio, che coglione. E infatti, stavolta io, la lontananza mi ha fregato, credo. Eh sì. Forse anche il fatto che te ne fossi andata prima tu perché mi amavi. Anche. Sono meccanismi, sono. E poi il tempo aiuta a dimenticare che una sola se amavi per nulla una persona e te lo dimentichi, appunto. Certo. Vabbè, che dire, starò a casa a vedere la televisione. È meglio. Io mi rimetto a pensarti. Oh, se un giorno dovessi dimenticarti di me, chiama, ok? Va bene, dai. Ciao. Ciao, giochiamo. Ok, dai, va bene, dai, inizia te. Ciao, giochiamo. Sei arrivato qualcosa di nuovo, va bene, dico sì, inizia te, dai. Ciao, giochiamo. Pronto? Ciao, sono io. Pronto? Ciao, sono io. Pronto? Può alzare la voce che non sento. Sono io. Sono io. Ah, ho sentito. Io chi? Quello che non hai amato per tanto tempo e poi a un certo punto hai amato, allora è finita. E poi hai telefonato dopo anni che non lo amavi più, ma ormai era troppo tardi. Il padre di tua figlia. Ah, sì, mi ricordo. Citofoni, lo lasci dentro il portone. No, forse non hai capito. Sono io. Ah, sei tu. Sì, ricordi? Avevi una Ford Fiesta. Una Ford Fiesta, no. Vabbè, comunque ho capito. Come stai? È l'amico di Luciana. Luciana chi? Luciana, vabbè. Comunque sì, eri tu. Come mai mi chiami? Niente, sto morendo. Ho un tumore al fegato e allora ho pensato, fammi fare uno squeletto a lei, vediamo che fa, come sta. Stai morendo di tumore? Sì. E io con la schiena che mi fa male ogni volta che piove? Davvero? Sono pure piena di cataratta, non puoi capire. Mi dispiace. E io, pensi che non mi dispiace? Certo, certo, certo. E nostra figlia come sta? È tutto bene. Certo, ultimamente mi dà qualche problema. Ma che è successo? Ma si è innamorata. Cavolo, no. Non so cosa ho sbagliato a livello educativo. Ma dimmi di te, quindi hai un tumore? Esatto, sto morendo, sto sul letto in ospedale, ti chiamo da qui. E si mangia bene? Dove? In ospedale. Non mangio da 2 settimane, ho la flebo, il respiratore e tutto, ma credo di sì, credo che si mangia abbastanza bene. Ottimo. Allora, che dire, in bocca al lupo, ok? Crepe. Ora ti saluto che soffro un po' di incontinenza urinaria. Ok, ok, stammi bene. Ciao. Ciao. Pronto? Buongiorno. Con chi parlo? Sono tua figlia, papà. Figliola mia, finalmente. Come hai fatto a trovarmi? Mamma mi ha dato il tuo cell, mi ha detto che gli hai fatto uno squillo stamattina. Sì, sì. Non sai quanto sono contento di sentire la tua voce. Anch'io, non sai quanto, papà. Davvero? Eh sì, papà. C'è una cosa che vorrei chiederti. Tutto quello che vuoi, figliola. Tutto quello che vuoi. Bene. Ho iniziato questo nuovo lavoro delle interviste e non riesco a chiuderne una, giuro. E allora quando mamma mi ha dato il tuo numero, ho pensato subito a te. In che senso? Ho pensato, cavolo, è mio padre, non ci sentiamo da 15 anni. Ti pare che non mi risponda all'intervista telefonica neanche lui? Mi chiami solo per questo? No, vabbè, mi manchi anche molto. Anche tu. Mi chiedevo spesso se stavi bene. Guarda, sarò velocissima. Dopo, se vuoi, parliamo del tempo che è passato, gli errori fatti, quello che ti pare, ok? Velocissima, poche domande. Ma veramente io... Ti prego, paparino. Non so davvero chi chiamare, altrimenti giuro non ti avrei mai chiamato. Mamma te l'ha detto dove sono? Eh sì, appunto, sbrigati per favore. Voglio dire, non si sa mai. Ma veramente avrei la chemio tra poco. Che ore sono? Non lo so, non porto mai l'orologio. Prima domanda, rispetto alle tue lezioni, senti poco soddisfatto? Soddisfatto? Molto soddisfatto? Ah, tu. I'm gonna be a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little